Si chiamava Elvis, come l'eroe del rock. Lo hanno trovato per terra in una stamberga di 20 metri quadri, polmoni intasati dalle esalazioni di un piccolo braciere. Da quando l'Enel aveva staccato la corrente che alimentava la stufetta elettrica, quel fuoco improvvisato e velenoso era diventato l'unica fonte di riscaldamento di tutta la famiglia. Non c'era altro calore, non c'era più cibo, ed Elvis se n'è andato così, addosso alla madre agonizzante, la testa appoggiata al ventre da cui era uscito 6 anni prima per la sua breve e infelice partecipazione alle vicende del pianeta Terra. Mi sento totalmente inutile come giornalista e come essere umano, perché mi tocca ancora raccontare storie del genere nel mio evoluto paese. Ci riempiamo la bocca, io per primo, di parole superflue, ci appassioniamo di problemi di minoranze potenti e arroganti, e accanto a noi, in un silenzio distratto, si consumano le disfatte degli umili e dei mansueti. Persone come la mamma di Elvis, che fino all'ultimo ha provato a raggranellare onestamente qualche soldo per la stufetta andando in giro a fare le pulizie. Il bene ieri ha perso di brutto. L'importante è rendersene conto, non distrarsi, non rassegnarsi, organizzare la riscossa. Anche per Elvis, che tornerà a trovarci ogni giorno sulla faccia di tanti bambini uguali a lui. Questo è il buongiorno di Massimo Gramellini, sicuramente anche un pugno nello stomaco, ma voglio concludere così la rassegna stampa. Vi ricordo il sondaggio alle 8.30, che ne pensate dell'ora di religione islamica a scuola? Votate su radio24.it. Rieccoci, le 8.18 minuti per parlare di economia. Soldi e dintorni. Eccoci con Deborah Rosciani. Sì, ma con questo tono non è che cominciamo tanto bene. Mi dava del boicottatore sempre per il volume delle cuffie. Ho capito qual è il problema del mattino, è che lui che abbassa lì il cursorino e me lo fa a tradimento. Non è un boicottaggio, diciamo. No. Allora, senti un po', parliamo di telefoni stamattina, ci piace l'argomento? Bene. Allora, prima di iniziare, sento cellulari che vibrano, che sicuramente il tuo, è il mio perché l'ho lasciato di là e tra l'altro rigorosamente silenziato. Prima di iniziare l'approfondimento di stamattina, volevo fare un richiamo al tema di cui abbiamo già parlato ieri a Salvadanaio, ma anche settimana scorsa qui a Soldi e Dintorni, cioè il tema della litigiosità fra consumatori e aziende. Abbiamo avuto modo di constatare ancora una volta come questa sia particolarmente alta nel settore delle telecomunicazioni. Perché? Perché gli operatori tendono a farsi una guerra senza esclusione di colpi, pur di strapparsi i clienti e pur di tenersi quelli che hanno. E abbiamo visto come il terreno della portabilità da un operatore ad un altro sia pure molto difficile da praticare, un po' perché i gestori trovano tutti gli escamotage, come dicevamo, per trattenere la clientela, e un po' perché non si dispongono degli strumenti per orientarci in un settore che è diventato una vera e propria giungla di offerte. Allora magari ci affidiamo al consiglio di un amico, al sentito dire. Invece è molto importante conoscere esattamente il nostro profilo di consumo e poter confrontare più offerte prima di sottoscrivere un abbonamento o un contratto. Da qualche tempo i consumatori hanno a disposizione un portale web, un bel sito dove è possibile capire bene le offerte commerciali degli operatori delle telecomunicazioni. Stendo un velo sul fatto che ad inventarsi, caro Alessandro, questo servizio ci abbiano pensato 3 ragazzi che sono poco più che 20 anni, per cui siamo dei bei falliti, io e te qua ancora a raccontarcela in radio alla nostra veneranda età. Le notizie circolano velocemente. Buongiorno ad Alberto Mazzetti, tra i 3 fondatori di SOS Tariffa. Alberto, buongiorno. Buongiorno Deborah. Mi viene molto facile dargli del tu, tra l'altro Alberto è il più vecchio di questo trio di giovani imprenditori, classe 1984, gli altri due sono dell'86, Alessandro Buzzi e Giuliano Messina, 1990, e qua davvero un bel po' di complimenti prima di partire. Grazie. Alberto, allora senti, comparatori di offerte vanno molto di moda in questo periodo, noi conosciamo quelli sui mutui, quelli sui conti correnti, ce ne sono diversi nel settore assicurativo. C'è quello istituzionale dell'ISVAP, il preventivatore, ce ne sono alcuni di iniziativa privata, c'è il trova offerte dell'autorità del gas e dell'energia, però il settore delle TLC era del tutto sguarnito, del tutto inesplorato. Sì, infatti abbiamo cominciato proprio dalle telecomunicazioni perché nel senso abbiamo visto, oltre che a un vuoto di mercato in Italia, è nato proprio dall'esigenza di cambiare tariffa. E quindi abbiamo creato SOS Tariffe che permette di risparmiare attraverso la scelta della tariffa più adatta alle proprie esigenze. Infatti siamo convinti fautori del fatto che non esiste proprio la tariffa più conveniente, ma il risparmio avviene proprio attraverso la scelta di quella che riesce a soddisfare meglio le proprie esigenze. Infatti tutti i risultati che restituiamo a seguito dell'inserimento dei propri profili di consumo sono ordinati per prezzo, quindi diciamo che si soddisfano contemporaneamente tutte e due queste necessità. Alberto, facciamo subito un esempio: devo cambiare abbonamento perché il mio lo giudico troppo costoso, perché per tutta una serie di motivi non mi soddisfa più. Che informazioni vuole da me SOS Tariffe? Ma allora, per quanto riguarda il cellulare, ad esempio, noi chiediamo poche semplici domande, come ad esempio il numero di chiamate effettuate ogni giorno, la durata media della chiamata, il numero di SMS e poi se si chiama o meno un particolare operatore o determinati numeri preferiti. Ci sono anche degli step di ricerca più avanzati per chi volesse un risultato più preciso, ma comunque anche solo con quei pochi dati riusciamo a creare un profilo di consumo e a confrontare contemporaneamente tutte le offerte presenti sul mercato. Ecco, anche dal vostro sito è possibile confermare quello che è un po' il problema di fronte al quale ci imbattiamo tutti quando affrontiamo il nodo dei servizi offerti dalle telecomunicazioni. Offerte sempre poco trasparenti, Alberto, perché un po' il tema è questo. Naturalmente magari vediamo tante pubblicità e tante offerte commerciali che possono allettarci ed interessarci, poi quando andiamo a sottoscrivere gli abbonamenti scopriamo sempre che c'è qualche, come dire, nodo non è completamente chiaro. Esattamente, infatti proprio nella telefonia mobile il problema, oltre alle promozioni che diciamo disorientano un po' perché poi una volta scadute la tarifazione cambia, ma il problema è proprio la tariffazione, nel senso che c'è chi tariffa al secondo, chi al minuto, chi ha 30 secondi anticipati, chi ha minuti posticipati, e quindi è molto difficile percepire quale sia quella giusta per le proprie esigenze e quale può permettere di risparmiare. Mm-hmm. SOS Tariffe è nato circa un anno fa, no? A settembre 2008, e come tu ci spiegavi, un po' è nato dall'esigenza di creare uno strumento che permettesse di superare la simmetria informativa che non esiste solo nel campo finanziario, perché noi questo è un termine che utilizziamo spesso, ma anche tra gli operatori di mercato e il consumatore finale nel settore delle telecomunicazioni. Il vostro lavoro vi ha dato ragione? Cosa è successo al vostro portale da un anno a questa parte? Quanti vi hanno visitato e quanti utilizzano questo mezzo per poter individuare l'offerta commerciale nelle telecomunicazioni che fa il caso proprio? Ma guarda, dall'inizio è stata una crescita continua, nel senso che pian piano che appunto la gente ne veniva a conoscenza, si creava un bel passaparola, e soprattutto nell'ultimo periodo, con il lancio anche dell'area della telefonia mobile, il confronto della telefonia mobile, stiamo praticamente raddoppiando i visitatori ogni mese. Adesso siamo attualmente su 150.000 visitatori al mese. Mm-hmm. 150.000. Esatto. E stiamo comunque continuando ad espandere i nostri servizi di comparazione, anzi vi posso dare un'anticipazione. Un'anteprima proprio, mondiale. Esatto, proprio ne avete parlato anche prima di Sky e Rai, e stiamo per lanciare proprio un motore di ricerca per il confronto delle televisioni a pagamento. Ah, bravo, ecco, perché questa poi è una cosa che ci manca. Tra l'altro adesso con il passaggio al digitale terrestre è un altro settore che rappresenta per molti consumatori una vera e propria giungla. Alberto, come vi sostenete? SOS Tariffe come si sostiene, visto che è un servizio totalmente gratuito per i consumatori? Esatto, SOS Tariffe riceve dagli operatori, al momento solo per la DSL, delle retrocessioni, diciamo delle provvigioni, quando un utente di SOS Tariffe dovesse sottoscrivere l'offerta a partire dal sito. Ci tengo a dire che questo genere, modello di business, non influenza in qualche maniera i risultati. Esatto, assolutamente, perché nel senso ci teniamo a essere imparziali e trasparenti in maniera assoluta, perché appunto crediamo che il vero valore sia soddisfare tanti utenti e tante persone che hanno bisogno di capirci qualcosa di più nell'ambito delle tariffe, e soprattutto farle risparmiare. E poi soprattutto, insomma, se queste idee che navigano su internet, se non le inventate voi che avete poco più di 20 anni, chi lo dobbiamo fare? Insomma, io e Alessandro Milan, che ormai siamo sulla via della pensione. Alberto, grazie molte per essere stato con noi. So che tra l'altro partirete presto anche con le assicurazioni, con le tariffe nel settore dell'energia, per cui c'è tanto che ancora bolle in pentola, se non sbaglio. Assolutamente, sì. Abbiamo in mente di andare avanti e creare motori che aiutino la gente a risparmiare, perché abbiamo visto che veramente non, la cosa migliore è riuscire ad avere una panoramica completa e poter scegliere benissimo, più consapevolmente. sostariffe.it.com, qual è il sito per concludere? .it. Benissimo. sostariffe.it. Grazie, grazie ad Alberto Mazzetti, buona giornata Alberto, grazie, presto, te, buon lavoro soprattutto. Alessandro. Eccoci qua, cara fallita. Oggi parliamo di caldaie. Hai fatto la revisione, visto caldaie, che stiamo accendendo i riscaldamenti della tua? No. E capirai, è generalizzata, questa è centralizzata. È centralizzata, siamo come la mia. Siamo in condominio a Milano, viviamo, esatto, nelle metropoli, così insomma. Benissimo. Sono le 8:33 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, le notizie in primo piano sono queste. Credo nel posto fisso sul lavoro, la mobilità non è un valore in sé, lo ha detto il ministro dell'economia Tremonti, che ha aggiunto: il posto fisso è la base su cui organizzare il proprio progetto di vita e la famiglia. E le parole di Tremonti trovano il consenso dei sindacati. La Corte Costituzionale ha reso note le motivazioni della sentenza sul lodo Alfano. Il provvedimento andava fatto con una legge costituzionale, si legge, perché si tratta di una deroga al principio di uguaglianza. Per i giudici, al Presidente del Consiglio non va riconosciuta alcuna preminenza sugli altri ministri coi quali condivide la funzione di indirizzo di governo. In Pakistan è cominciata poco fa un'offensiva di terra dell'esercito nella regione del Waziristan, nel nord-ovest del paese ai confini con l'Afghanistan. Nel mirino ci sono i talebani, secondo quanto riferito da fonti governative. Infine per il calcio, stasera la Champions League con le prime due italiane in campo. L'Inter ospita la Dinamo Kiev di Shevchenko, mentre la Fiorentina va a Budapest contro il Debrecen. E allora sono le 8:34 minuti, siamo pronti per il nostro sondaggio di oggi. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. La domanda che vi facciamo, come detto, e alla quale dovete rispondere su radio24.it, nella sezione bianco o nero che trovate nell'home page, è questa. Siete d'accordo con l'introduzione, la possibile introduzione di un'ora di religione islamica facoltativa nelle scuole italiane? La proposta è stata avanzata in un convegno dal viceministro per lo sviluppo economico Adolfo Urso, che saluto. Viceministro, buongiorno. Buongiorno a lei. Eccoci. Allora, subito per entrare, come si dice, con i piedi nel piatto, io le voglio far ascoltare quello che il ministro dell'interno Maroni ha detto ieri, perché bisogna dire, insomma, effettivamente sono state più le critiche, i distinguo, ma no, piuttosto che le aperture. Ma adesso lei ci spiegherà tutto della proposta. Però Maroni è stato secco, ministro dell'interno, ieri è intervenuto con Maurizio Belpietro sul canale 5, sentiamo. Ma dal punto di vista concreto, pratico, mentre l'ora di religione cattolica rappresenta un'entità, la Chiesa, che ha una gerarchia, dei valori ben chiari, ben definiti e quindi che si possono trasmettere, l'Islam è un mondo tutto diverso, l'imam interpreta il Corano liberamente, non c'è una serie di dogmi, non c'è un messaggio chiaro da trasmettere. Se, come penso fosse nelle intenzioni di Urso, questa misura serviva per migliorare l'integrazione, siamo tutti d'accordo nel migliorare l'integrazione, ma questo è certamente il modo più sbagliato per farlo. Allora, sì all'integrazione, ma questo è il modo più sbagliato per farlo. Adolfo Urso, visto che noi la conosciamo, lei è sempre molto attivo, impazzito sicuramente, non è impazzito di colpo in questo convegno in cui ha proposto questa cosa, ce la spieghi. Beh, allora il ministro Maroni si è detto sostanzialmente d'accordo. In linea di principio lui dice: se anche l'Islam fosse in qualche misura istituzionalizzato, allora noi saremmo d'accordo, perché il problema che lui pone è con chi regoliamo l'insegnamento, se l'imam può liberamente interpretare il Corano. Io gli posso rispondere che in oltre 20 paesi dell'Unione Europea, della nostra Unione Europea, questa regolamentazione è già avvenuta, e in quei paesi, parlo della Germania, anzi dei Länder cattolici della Germania a guida CDU, parlo della Spagna cattolica, parlo ovviamente di paesi come l'Olanda, il Belgio, l'Austria e tanti altri, in questi paesi hanno trovato la soluzione pratica. Quindi la soluzione c'è, tant'è vero che l'hanno perseguita oltre 20 paesi della nostra stessa Unione Europea. In linea di principio, questo è quanto sancito dalla nostra carta costituzionale, in linea di fatto è quanto sancito già dalle nostre leggi. Infatti una legge del 1930, cioè del periodo fascista, che attualizzava il concordato del 29, prescrive già, e quella legge è ancora in vigore, che se in una classe ci siano un congruo numero di studenti che chiedono un insegnamento religioso diverso, lo Stato, parlo dello Stato fascista, che è stata recepita dall'ordinamento democratico, ha il dovere di garantire loro che possono avere il proprio insegnamento. E lei dice, visto l'unica che differenza sulla base del concordato è che gli insegnanti della religione cattolica, ed è giusto che sia così, io sono un cattolico e credo fermamente in questo, siano pagati dello Stato, mentre gli altri insegnanti se devono pagare le comunità religiose. Certo, infatti, certo. Infatti, per quanto riguarda la cultura ebraica, questo già esiste. Questo già avviene. Paese. Lei dice, è una questione anche di numeri, visto che ci sono molti allievi e sempre di più, insomma, visto il fenomeno migratorio di fede musulmana, è giusto anche aprire da questo punto di vista. Lei avrà letto anche ieri le critiche, per esempio, di Vittorio Messori sul Corriere, cioè che si fa? Durante l'ora di religione poniamo islamica, li prendiamo, li mettiamo a fare l'ora di religione islamica ed ecco, dice Messori, che si crea la madrassa, la scuola coranica all'interno della scuola. Vittorio Messori è notoriamente contrario all'insegnamento religioso cattolico nelle scuole. Vittorio Messori dice: non insegniamo alcuna religione. Questa posizione io non la condivido e ovviamente non la condivide la Chiesa Cattolica, perché io non sono un relativista né un laicista. Io credo nel valore fondamentale delle religioni e credo che esse possono, come accade negli altri paesi europei, come sempre accaduto in Italia, essere insegnati nella scuola statale. Quindi Vittorio Messori dice: cancelliamo l'ora di religione. Bene, anche quello che dice è sostanzialmente falso, glielo spiego subito. Secondo la Costituzione italiana e la legge italiana, i privati possono realizzare nel nostro paese delle scuole private, anche confessionali, purché rispondendo alle regole dello Stato. Quindi è possibile in questo paese che accanto alle 1000 moschee nascono 1000 madrasse che insegneranno il Corano a loro modo. Noi possiamo tollerare questo? È utile per noi che il Corano venga insegnato chissà da chi? E dice, è un modo per renderlo trasparente, dunque più controllabile, anche questo. Sarebbe un modo, no? La posso tradurre così, un modo anche per renderlo, proprio per non lasciarlo a iniziative private poco controllabili. Tra l'altro, Vice Ministro, la sta ascoltando e voglio salutare Matteo Salvini, buongiorno. Buongiorno a tutti. Salvini, europarlamentare della Lega Nord. Beh, insomma, Maroni, anche oltre ministro dell'interno e della Lega, l'abbiamo sentito. Oggi ho qua la Padania, titola Radici cristiane, altro che Islam. Salvini, però devo fare una critica. Perché la Lega subito si è sentita quasi, se si può dire, intruppata in una guerra a difendere delle radici cristiane? Insomma, Urso ha posto un problema, se ne può discutere, forse anche impopolare, vedo per ora il 75-80% dei nostri ascoltatori dicono no all'ora di religione islamica. La discutiamone. Invece la Lega si è subito arroccata un po' su questo. Ma guardi, innanzitutto chiariamo che non è un problema religioso. A me interessa poco se uno crede in Allah, in Valdo, in Gesù Cristo, nel Milan o nell'Inter. Quindi è libero di credere nel Dio che vuole, professarlo come vuole. Sarebbe sciocco e autolesionista nascondersi che l'Islam, o meglio nel nome dell'Islam, ne stanno succedendo di tutti i colori, non a Milano ma in tutto il mondo. Sarebbe miope non vedere non quello che succede a Milano, a Cuneo, a Verona, ma quello che succede a Marsiglia, a Rotterdam, a Londra, a Berlino. Io sentivo il Vice Ministro dire che tanti paesi europei hanno aperto in passato, prima di noi, all'Islam. Nelle scuole stanno tornando indietro. Volevo avvisare il Ministro che qualcuno si sta rendendo conto in Europa che c'è un tentativo nel nome di un Dio, in questo caso nel Dio dell'Islam, di occupare dei territori. Ma non è Salvini, come dice Urso, è proprio perché magari viene lasciato tutte iniziative private, non controllate. Invece questo sarebbe, seguendo il ragionamento di Urso, non è che lo sposo, ma voglio dire, seguendo questo ragionamento sarebbe più lineare, più controllato, con gli imam che devono parlare italiano, con gli insegnanti religiosi che verranno controllati. Ma che gli imam debbano parlare in italiano in qualsiasi futura moschea, semmai noi saremo contrari, ma semmai ne apra una, è già presente in un disegno di legge depositato dalla Lega da 2 anni e giacente in Parlamento. Quindi su questo siamo tutti d'accordo che qualsiasi nuovo luogo di culto debba rispondere a precise richieste ed esigenze di trasparenza finanziaria e di sicurezza, su questo siamo tutti d'accordo. Detto questo, la Lega ritiene, e speriamo di sbagliare, io penso che questo sia uno dei casi in cui un partito, un movimento, un parlamentare spera di sbagliare, La Lega ritiene, ahimè, in buona compagnia, ripeto, io per l'Europa, senza scomodare Oriana Fallaci o Vittorio Messori, in buona compagnia di diversi governanti in Europa, che nel nome dell'Islam ci sia un tentativo di occupazione di spazi e di luoghi. Indi per cui anche una semplice, qualcuno potrebbe dire ma che male fa, una semplice ora di religione islamica in una scuola pubblica, da molti sull'altro fronte sarebbe intesa non come una sana apertura, una voglia di dialogo, ma un altro passo avanti verso la conquista di territori. E cedere da questo punto di vista sarebbe veramente autolesionista. I numeri ci dicono che in alcune città europee, e citavo Birmingham, Rotterdam, Marsiglia, Amsterdam, nel giro di 15 anni la maggioranza dei cittadini rischierebbero, io uso questo verbo, di essere cittadini di religione islamica, con rischi per la democrazia che anche i socialdemocratici tedeschi, chiedeteglielo, leggete, sì. Io sentivo Radio 24 settimana scorsa la bufera che ha investito un membro del bureau della Bundesbank, sì, sì. Ex ministro socialdemocratico del Land di Berlino, dicendo qua fra un po' in Germania gli arabi saranno padroni a casa nostra e noi faremo la fine del Kosovo. È una preoccupazione che passa anche attraverso l'ora di Islam nelle scuole pubbliche. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Devo dire che al momento il 78% dice di no all'ora di religione islamica, ma lei, vice ministro Urso, sa di avere detto qualcosa che sicuramente anche dalle reazioni politiche non appare come la cosa più popolare del mondo, no? In questo momento come proposta, ma insomma magari anche il coraggio delle proposte impopolari. Oggi Alberto Melloni, anche lui scrive: l'idea che per amore di patria costituzionale si debba insegnare l'Islam agli islamici, l'induismo agli indù, il sikhismo ai sikhi, il confucianesimo ai cinesi e così di seguito, è un errore. Sarebbe utile il contrario, far insegnare ai ragazzini islamici cos'è il cristianesimo, visto che si vive in Italia. Onorevole Urso, perché lei ha parlato di islamici? Allora, innanzitutto non ho parlato di islamici, ma ho parlato esclusivamente di garantire il diritto alla libertà di insegnamento e libertà religiosa nel nostro paese, proprio la Corte Costituzionale e la Costituzione italiana, e ho parlato della legge italiana che prevede anche per le altre religioni, ove vi fosse un congruo numero di studenti, il diritto di avere il proprio insegnamento. Questa è la Costituzione, la legge italiana e ovviamente anche i diritti fondamentali dell'individuo e della persona. Ho parlato delle altre religioni. Poi ovviamente i giornalisti hanno volgarizzato con quella islamica, perché quella consistente nei flussi di immigrazione, ma ricordiamo che in Italia vi sono tanti rumeni, 770.000, la maggior parte di quali della colpa. Vice ministro, non dia anche lei la colpa a noi giornalisti. No, gli do il mio testo, ma detto questo non mi sottraggo al problema, come non si è sottratto il sommo pontefice, che credo ne capisca qualcosa di evangelizzazione. Ebbene, il cardinale Ratzinger, quando era cardinale in Germania, si disse d'accordo con questo insegnamento, e infatti Lander tedeschi, guidati dalla CDU, garantiscono già questo insegnamento, cioè quelli cattolici, perché i cattolici in Europa sono i più favorevoli a questo insegnamento. E lo stesso cardinale, diventato sommo pontefice, ricevendo un governatore di uno di questi Länder tedeschi, gli assicurò il suo sostegno e la sua convinzione che questo fosse utile, l'insegnamento della religione islamica nelle scuole pubbliche statali, ad alcune garanzie che ovviamente tutti condividiamo, quello che gli insegnanti siano di lingua nazionale, in quel caso tedesco, nel nostro italiano, che quegli insegnanti diffondano la cultura e i valori della nostra civiltà. Sì, insomma, tutte le garanzie, certo. Aspetti, mi faccio continuare. Sì. D'altra parte, non è meglio che questi studenti imparino la nostra cultura nelle nostre scuole statali? È un'ora su 35, le altre 34 c'è Dante, c'è la lingua, c'è la letteratura, c'è la storia, c'è la filosofia, c'è la matematica, c'è la scienza, cioè ci sono quelle materie che delimitano, caratterizzano l'insegnamento della nostra civiltà. E quindi questi qui imparino il cristianesimo nelle altre 34 ore, perché il cristianesimo è Dante, perché il cristianesimo è la nostra filosofia, perché il cristianesimo sono i diritti civili. Non è meglio che nelle 34 ore seguano l'insegnamento statale e in quell'ora seguano, garantiti dallo Stato, degli insegnanti che laici ma islamici, o laici ma insegnanti di islamico, dicono l'Islam della pace, del dialogo. È una proposta chiarissima la sua, perché voglio andare a dare, se mi promettono di essere brevissimi, però davvero, due ascoltatori. Andrea da Vicenza, buongiorno, è a favore o al contrario? Contrario, buongiorno. Perché? Perché l'Islam non ha nessun tipo di apertura nei confronti del cattolicesimo e del cristianesimo, vedasi l'impossibilità di aprire chiese nei loro territori e la maturizzazione dei nostri preti, missionari in giro per il mondo. Non c'è reciprocità, dice, allora non va bene. Va bene, grazie, è stato chiarissimo. Alberta da Firenze, buongiorno. Sì, buongiorno. Vorrei esprimere un'osservazione. Il dibattito che state facendo e che sento in questi giorni mi sembra viziato da un equivoco di fondo, cioè dalla non chiara individuazione dell'IRCE in ambito scolastico. L'insegnamento di religione cattolica in ambito scolastico non è affatto una catechesi che può disturbare sensibilità religiose diverse. È un insegnamento di tipo esclusivamente culturale. Che corrisponde esattamente all'impianto scolastico italiano. Questo è stato detto qua, adesso no, non l'abbiamo detto, è vero, però è stato scritto e ribadito spesso nei giornali in questi giorni. Però Alberto, la sua posizione qual è? Lei la vede con apertura o chiusura questa? Rispetto per tutte le religioni, ma l'insegnamento di religione cattolica nella scuola serve per conoscere l'impostazione, l'impronta religiosa della cultura occidentale, che è di tipo cristiano-cattolico e non islamico. Per cui, perfetto, grazie, la sua posizione è chiara, le sue parole, tra l'altro le ascoltate anche Zedine Elzir, che voglio salutare, buongiorno. Buongiorno. Portavoce dell'UCOI, l'Unione delle Comunità e Organizzazioni Islamiche in Italia. Che ne pensa della proposta del viceministro Urso che l'ascolta, cioè lei è favorevole oppure neanche voi chiedete un qualcosa del genere? Noi apprezziamo questa proposta e la accogliamo con tanto piacere, perché realmente crea un dibattito e la dimostrazione che abbiamo dei nostri politici che pensano per il futuro del nostro paese. Il nostro paese ormai è molto etnico, molto religioso. È giusto che i nostri politici pensano per il futuro, e certamente per metterla in pratica ci vorrebbe da parlare, da studiare, da metterci su un tavolo, ma già di per sé fare buono una che se ne parli, è bene che sì, se sì. ne parli. Allora, Salvini, che ne pensa lei? Perché questa idea di parlarne no, neanche l'idea, insomma, c'è una chiusura preconcetta oppure parlatene, insomma? Ma guardi, già il fatto che il rappresentante dell'UCOI, che è organizzazione dal nostro punto di vista estremista, sia soddisfatto del fatto che se ne parli, è un primo passo verso la sconfitta. Perché che in un paese libero, dove il diritto della donna, dei minori, dove la libertà ha una concezione ben chiara, fortunatamente da qualche secolo, si ceda spazio a un tentativo di occupazione, io riutilizzo questa parola forte, e venga salutato con entusiasmo, giustamente, da parte di chi questa occupazione la porta avanti magari in giacca e cravatta col sorriso oggi, domani non so, e questo per me già dice tutto. Ma insomma, il replichi a questo, però, perché l'occupazione? Io spero che non giudichiamo le persone di vedere di quello che loro fanno, non dell'attenzione che uno pensa sull'altro. Giustamente l'onorevole non la vuole vedere la verità, che abbiamo più di 600 stranieri dentro le nostre scuole. Abbiamo un numero sempre più maggiore della fede islamica nel nostro paese. Se il nostro onorevole non la vuole vedere la verità, è questo il suo problema. Mi piace no, ma che ci siano queste persone è indiscutibile, i numeri sono quelli. Salvini contesta il fatto che per questo si debba fare un'ora di religione apposito. No, è questo Salvini il punto, poi devo chiudere su questo. Assolutamente sì, anche perché se non sbaglio ci sono organizzazioni come quella dell'amico islamico che sta parlando, che non nascondo il fatto che il loro obiettivo è islamizzare tutto l'Occidente, quindi io dare spazio a queste persone oggi veramente voglia non ne ho. Va bene, fermiamoci qua, che è meglio. Alle 8:56 minuti voglio ringraziare il viceministro per lo sviluppo economico, l'onorevole Adolfo Urso. Vedremo insomma questa proposta come si concretizzerà, che passi farà, così come Matteo Salvini della Lega Nord, europarlamentare, e Zedine Elzir, portavoce dell'UCOI. Ci fermiamo, votate su radio24.it bianco o nero nell'home page, trovate il nostro sondaggio, che ne pensate dell'ora di religione islamica. Per ora 77% no. Grazie ad Alessandro Marcotulli, Peter Bescapè in regia, e ci sentiamo puntuali 7:30 domani con 24 Mattino.